Archimede, tra passato e futuro, di Maurizio Melis. L'agricoltura di domani. Visualizzate per un momento una di quelle vaste distese monocromatiche che si incontrano percorrendo le autostrade italiane. Il giallo dei girasoli, il viola della lavanda, e immaginate però di sostituirle con un fitto patchwork multicolore. Immaginate robot agricoli guidati da segnali satellitari, occhi elettronici e sensori che annusano la chimica del terreno. Guardateli a girarsi per i campi mentre contadini in camice bianco con un dottorato appeso nel corridoio di casa discutono dell'ultimo modello di erogatore goccia a goccia, con un occhio rivolto quasi distrattamente ai movimenti misurati e regolari delle macchine agricole. Ebbene, è possibile che l'agricoltura vada in questa direzione? A quali sfide l'agricoltura moderna deve rispondere e che cosa possiamo imparare dal passato? Ce lo domandiamo oggi ad Archimede insieme a Luigi Sartori, che è docente di meccanizzazione agricola all'Università di Padova e dirige il Centro Interuniversitario di Ricerca in Agricoltura di Precisione. Buonasera Sartori. Buonasera Melis, buonasera a tutti. Paolo Nanni è l'altro nostro ospite, docente di Storia dell'Agricoltura all'Università di Firenze e anche membro dell'Accademia dei Georgofili. Buonasera Nanni. Buonasera Melis. Dunque, iniziamo da lei Sartori. Io le chiedo, quali sono le criticità che oggi l'agricoltura su scala globale deve affrontare? L'agricoltura risente degli andamenti climatici, essendo inserita nell'ambiente, è chiaro che soffre di quello che soffre il pianeta intero, per cui diciamo senz'altro i problemi di mitigazione del clima sono senz'altro i prioritari. Il terreno agricolo rimane sempre quello, aumenta il numero delle persone da sfamare e la qualità del terreno che è posto in coltivazione cala sempre di più, perché si notano dei problemi di desertificazione, riduzione della sostanza organica, per cui la potenzialità del terreno diventa sempre più critica. Ecco, e tra l'altro questo largo uso per esempio di fertilizzanti che si fa non resta sul terreno ma prima o poi finisce nel mare, siano anche problemi all'opposto, non di impoverimento ma di eccessivo arricchimento delle acque, per cui l'eutrofizzazione, le famose alghe che invadono ogni tanto anche le riviere italiane. Insomma, mi sembra di capire che siamo di fronte ad una situazione in cui, considerato che anche la terra, la superficie sta finendo, l'unica possibilità è fare un salto a livello di produttività dell'agricoltura. Sì, ci sono varie strade per questo, ci sono senz'altro le biotecnologie, ma anche bisogna cercare di, come diceva lei, aumentare la capacità produttiva, la fertilità del suolo. Dunque Nanni, è successo qualcosa del genere in passato? Cioè, la mia sensazione è che l'agricoltura si sia già trovata altre volte a fare, per così dire, i conti con quello che sembrava il raggiungimento dei limiti, ma poi questi limiti sono stati superati. Quali sono stati i passaggi chiave da questo punto di vista, storicamente parlando? Beh, certamente un primo passaggio importante è l'introduzione dell'aratro, che ha permesso, certo, di coltivare in modo più approfondito, ottenere maggiori prodotti. Questo quando avviene, più o meno? 5.000 anni avanti. 5.000 anni avanti Cristo, avanti Cristo. Ecco, passaggio successivo qual è? Il passaggio successivo comincia nel 600-700 con quella che viene definita la nuova agricoltura. Si tratta della introduzione di nuovi sistemi di rotazione che alternavano diverse colture in modo pluriennale. Per ottenere questo le concimazioni erano fondamentali e dunque il legame tra zootecnia, l'allevamento, e l'agricoltura. Le coltivazioni foraggere servivano per alimentare la stalla consentiva di raccogliere i concimi che permettevano di incrementare la produttività e la fertilità del suolo. Quindi comunque parliamo di qualche millennio dopo, insomma, c'è una bella distanza fra il primo e il secondo step fondamentali. Sono i tempi lunghi dell'agricoltura. Ecco. Lei pensi soltanto un fatto, che l'aratro a chiodo che noi troviamo nei reperti 2000 anni avanti Cristo si è mantenuto nelle nostre campagne fino a 70 anni fa. Contemporaneamente sono avvenute anche dei tentativi, delle introduzioni di nuove tecniche, ma i tempi dell'agricoltura sono stati molto lunghi. Ecco, poi il cambiamento successivo, più significativo in seguito. Il passaggio più significativo è stato poi quello del 7-800, quando le nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche sono state trasferite nel mondo dell'agricoltura, e qui è il passaggio importante della meccanizzazione. Insomma, siamo arrivati alla meccanizzazione. Ecco, una meccanizzazione che ha anche cambiato proprio profondamente l'ambiente e la professione. Allora, fermiamoci per qualche secondo. Siamo nelle risaie della pianura padana, dove a fine 800 avreste potuto ascoltare qualcosa del genere. Asso Madrea per la pega, oila. Erano i canti delle mondine, popolarissimi, passano pochi anni, lo stavamo dicendo prima, e sentite un po' cosa succede. Beh, insomma, questo è decisamente meno ascoltabile, è un Landini a testa calda. Pensate voi, un trattore sotto il quale bisognava accendere un fuoco, altrimenti non partiva. Ebbene, arriva quindi la meccanizzazione, l'agricoltura si fa industria, poi arriva anche la rivoluzione verde, Nanni. Beh, certo, è quella rivoluzione che ha portato, insieme alla meccanizzazione, a mettere a disposizione anche quei ritrovati della chimica applicati alla difesa, oppure ai fertilizzanti, che sono stati utilizzati per migliorare la produttività in momenti in cui le campagne si stavano spopolando. Archimede, tra passato e futuro. Bentornati ad Archimede, io sono Maurizio Melis e gli ospiti di oggi sono Luigi Sartori, tecnologo agricolo, e Paolo Nanni, storico. Parliamo di agricoltura, da dove viene e dove va. Ascoltiamo. 14 nazioni, 2800 espositori alla 54esima Fiera Agricola di Verona. La novità di quest'anno è l'accento dato alla meccanizzazione agraria. Scrosciano le fontane, acqua, fecondità della terra ben lavorata. È arrivata la meccanizzazione, siamo alla Fiera di Verona nel 56, beh, per la verità la meccanizzazione era arrivata un po' prima, ma evidentemente sta proprio esplodendo in quegli anni. Ecco, che cosa cambia? Cambia proprio il paradigma dell'agricoltura, che diventa agricoltura industriale, e quando, come dire, i bracci meccanici sostituiscono le braccia umane, non si usano più i muscoli, viene meno una tendenza a fare economia. Pensiamo solo all'irrigazione. Insomma, quando bisognava spostare magari dei secchi d'acqua, uno insomma usa l'acqua con grande attenzione, se invece la può sparare a grande distanza con un cannone, forse fa un po' meno attenzione. E questa potrebbe essere, diciamo, il peccato originale in questo momento dell'agricoltura. Dunque, Sartori, voi a Padova state appunto lavorando su un nuovo modello di agricoltura che in un certo senso coniuga i benefici della tecnologia con un sapere più antico. E tutto parte da una scoperta abbastanza recente che riguarda la struttura dei terreni. Sì, come diceva lei, è giusto il fondamento antico, perché già parlando di storia, già Columella al tempo dei Romani consigliava di concimare i terreni a vista, dando maggior quantità di letame nei suoli dove si vedeva che c'era poca struttura. E lo stesso si dica per il seme: il seminatore a mano dava una manciata di più, era più lento nel gettare i semi quando il terreno lo richiedeva. Ecco, queste cose le abbiamo perse con la meccanizzazione. Dagli anni 50 l'operatore agricolo ha perso il contatto con il terreno, perché è più facile stare sopra il trattore e trattare in maniera omogenea tutti i campi. Ecco, ma su che scala cambia il terreno? La variabilità del terreno può variare anche su scale molto, molto ridotte, anche sui 20-30 metri, però bisogna considerare che non sempre queste zone sono gestibili dalle macchine, perché molto spesso le macchine sono anche più larghe di 20-30 metri, per cui si fa fatica a gestirle. Ecco, infatti questo ci porta direttamente proprio al tema centrale di questa puntata di Archimede, che è l'agricoltura di precisione, che è una specie di seconda meccanizzazione, mi corregga se sbaglio. Sì, è un po' un ritorno al passato con le tecnologie presenti, anzi si può dire che è grazie alle moderne tecnologie che si può ritornare alla gestione del passato. Che cosa fanno queste macchine di diverso rispetto alle macchine attuali? Sono macchine intelligenti che con l'uso dei ricevitori satellitari e grazie alla costruzione delle mappe che rappresentano il tipo di suolo, si può adattare il modo di coltivazione per ogni singola zona. In questa maniera si riesce a ridurre la quantità di concimi o di mezzi chimici utilizzati, perché si dà soltanto il minimo indispensabile per ottenere il massimo della produzione. Ecco, queste macchine addirittura sono in grado loro proprio appunto di analizzare il terreno e poi mixano queste informazioni con altre informazioni satellitari, credo anche mappe aeree, è possibile? È possibile, le mappe possono essere prese dal satellite oppure mappe aeree oppure da attrezzi che sono vicino al campo e fanno una fotografia di come sta la pianta in quel momento. In base a questo, alla sofferenza o meno della pianta, la macchina riesce a adattare la quantità di prodotto chimico che deve distribuire. Quali sono le economie che sono prevedibili facendo ricorso a questa agricoltura di precisione e quanto in più renderebbe l'appezzamento di terreno? Le economie, se guardiamo la singola operazione colturale, sono molto basse, perché ad esempio per la concimazione, questi sono i dati nostri italiani, si riesce a ridurre del 15-20% i costi di fertilizzante a fronte di una produzione che rimane sempre uguale, per cui abbiamo una riduzione del 15%. Però se noi adottiamo questa metodologia anche a tutte le altre operazioni, quindi alla distribuzione dei fitofarmaci, all'irrigazione e così via, otteniamo una riduzione ben più sensibile. D'accordo, e il metro quadro di terreno agricolo produce di più o produce lo stesso? No, produce meglio, produce di più con meno prodotto chimico, quindi ci sono meno inquinamenti, maggiore efficienza di tutti i mezzi produttivi e maggiore produzione anche. Va bene, passiamo al prossimo argomento e lo facciamo con un momento musicale. Perché continuano a costruire le case e non lasciano l'erba, dice Celentano, ma neanche l'agricoltura tradizionalmente va molto d'accordo con l'erba. Pensiamo appunto all'uso ampio che si fa di diserbanti. Ultimamente però, soprattutto in Sud America, si sta diffondendo una nuova forma di agricoltura, forse nuova, forse no, in cui le specie coltivate, per così dire, convivono con quelle che crescono naturalmente. Parliamo dell'agricoltura no-till. Sartori, cosa vuol dire no-till? No-till è il termine inglese che significa nessuna lavorazione, quindi la coltivazione viene fatta senza usare macchine per la lavorazione del terreno, quindi si semina direttamente su un terreno non lavorato. Quindi si manda in pensione l'aratro. Si manda in pensione l'aratro. Ecco, senta, ma qual è il vantaggio? I vantaggi sono economici soprattutto, perché non usando l'aratro e tutti gli attrezzi che ci vanno dietro c'è un risparmio di gasolio, di macchine e così via. Risparmiamo la meccanizzazione. Ma il terreno anche cambia proprio la struttura, se ho capito bene. Sì, perché è cambiato il modo di coltivazione, per cui non arieggiandolo troppo, il terreno è in grado di aumentare il suo contenuto di sostanza organica e quindi migliorarsi sempre di più. C'è proprio, come dire, tutto l'ecosistema che funziona, che normalmente invece viene continuamente interrotto dalla rattura e dalle pratiche agricole. Mi pare che si stia diffondendo dove ci sono soprattutto problemi di corrosione. Sì. Infatti le prime applicazioni sono state fatte proprio per ridurre l'erosione, anche eolica, nell'America del Nord, per quindi evitare che il terreno se ne vada dalla campagna e entri nell'acqua, nei corpi idrici. Questo è il primo vantaggio che si può avere da questa forma di agricoltura. Ecco, Nanni, sono pratiche che in qualche modo sono state utilizzate in passato da qualche parte, questo tipo di, diciamo, coltivazione senza aratura? Beh, sono pratiche che si adattano laddove l'ambiente e le necessità degli uomini possono sostenere questo tipo di coltivazione. Nel nostro paese è un po' difficile perché la varietà dei terreni, la loro limitatezza ha portato i nostri contadini nel passato a cercare di ottenere sempre il massimo da quei piccoli pezzi di terra che riuscivano a coltivare. Pensi alle nostre colline, alla nostra fasce montuose, in cui era necessario talvolta seminare e piantare anche in terreni molto impervi. E allora l'uso dell'aratro, della zappa, della vanga erano fondamentali. Si diceva l'aratro alla punta di ferro, la zappa alla d'argento, d'oro alla vanga. Va bene, con questa perla di saggezza passiamo all'ultimo argomento di oggi, lo introduciamo con una scheda. Ascoltate. Nella cultura tradizionale della Mesopotamia, il significato della parola giardino somiglia a quella di paradiso. Si può solo immaginare lo stupore, il senso di meraviglia e di potenza che invadeva i viaggiatori quando, attraversato il deserto iracheno e superata la porta di Ishtar, si apriva davanti a loro l'incredibile spettacolo offerto dai giardini pensili di Babilonia. Molto più recentemente, l'idea di riportare orti e giardini in città è riemersa per mitigare l'effetto isola di calore, il surriscaldamento che colpisce le città. Dixon Depomier della Columbia University ha iniziato a lavorare in questa direzione arrivando oltre 10 anni fa a disegnare la prima Vertical Farm, cui negli anni hanno contribuito numerosi tra architetti e ricercatori. Le Vertical Farm sono molto più che orti o giardini sui tetti dei palazzi. Sono grattacieli verdi, alti da 30 a 50 piani, in cui si coltivano ortaggi con tecniche idroponiche. Secondo Depomier, questi oggetti sarebbero estremamente efficienti. Il primo risultato che si raggiunge coltivando e distribuendo gli ortaggi direttamente in città è l'azzeramento dei trasporti e il conseguente consumo di carburante e imballaggi. In secondo luogo, in questi edifici l'ambiente sarebbe controllato sotto ogni punto di vista, privo di parassiti e di specie infestanti, con un ciclo di nutrienti chiuso e regolato. Grazie allo sviluppo verticale delle coltivazioni, si otterrebbero economie impensabili nell'agricoltura tradizionale, raggiungendo rese che, a seconda delle specie coltivate, sono da 5 a 30 volte più elevate, consumando un 1/20 dell'acqua e azzerando rifiuti, emissioni e consumi energetici. Ognuno di questi edifici potrebbe produrre cibo per decine di migliaia di persone. Dunque, Sartori, lei che è lo storico, che cosa ne pensa di questi grattacieli verdi? Ma prima di pensare di costruire grattacieli verdi nelle città, io penserei di regolare e sistemare i terreni che sono in stato di abbandono, dice? Perché sono in stato di abbandono? Sì, sono in stato di abbandono, certe volte anche in maniera vergognosa, quindi mi sembra un controsenso costruire o portare l'agricoltura in città quando le potenzialità del nostro clima, del nostro ambiente sono ancora tutte da scoprire. Nanni, lei cosa ne pensa? È d'accordo con Sartori o ha un'altra opinione sull'argomento? No, sono d'accordo con l'osservazione di Sartori, perché dobbiamo tener conto della erosione di tante superfici e suoli precedentemente utilizzati nell'agricoltura. Mi permetta però anche una battuta. Questo riportare gli orti in città, in realtà questo sì che è una cosa che risale al passato. Consideri che fino agli anni 50-60 le nuove costruzioni che erano fatte nelle città, oltre a prevedere gli spazi della cantina, prevedevano sempre anche un piccolo pezzetto di orto. Certo. Oggi pensiamo più al box per le auto, ma l'orto in città era una pratica molto diffusa, che apparteneva un po' ad una nostra società e cultura che ha le radici in campagna. Insomma, a nessuno dei due piace, a me piaceva un pochettino di più, comunque non importa. Grazie Luigi Sartori, grazie Paolo Nanni. Grazie. Bene, prima di darvi appuntamento per la prossima settimana, una riflessione. Pensiamo infatti a come gli scenari che abbiamo cercato di raccontarvi in questa puntata di Archimede portino verso una figura di agricoltore completamente diversa da quella del passato. Una figura sempre più interdisciplinare, in grado di riassumere competenze che vanno dall'agronomia fino anche alla robotica. Fino agli scenari estremi delle vertical farm dove forse un giorno gli agricoltori porteranno il camice bianco. A domenica prossima.